Buongiorno a tutti da Antonio Pavolini e benvenuti al 16° numero di Conversational, la rubrica di Radio Popolare Roma dedicata alla rivoluzione dei social media. Sono 15 puntate che diciamo che le aziende e le istituzioni devono conversare in rete, ma per molte di esse in realtà sarebbe già un bel passo avanti limitarsi ad ascoltare bene quello che si dice sul loro conto sui social media. Il web, con la sua capillarità, riesce infatti a far emergere nuovi, insospettabili valori e disvalori che vengono associati a un marchio, a un'istituzione, ma anche a una singola persona, permettendoci di gestire con molta precisione la nostra reputazione. Ma ascoltare la rete, come dimostrano le ultime polemiche sul forum della comunicazione digitale e sull'agenda digitale, nasconde anche formidabili insidie e richiede molta cautela. Ne parliamo tra pochissimo. Essendoci casi concreti, quando siamo partiti circa un anno fa non sapevamo come muoverci, quindi siamo entrati e abbiamo iniziato ad ascoltare le conversazioni sulla Toscana. Nei primi 6 mesi di campagna abbiamo analizzato oltre 350.000 conversazioni. Questo ci è servito per realizzare un preciso brand assessment, il più preciso possibile, di qualsiasi ricerca, di qualsiasi istituto di ricerca, tra l'altro aggiornato in tempo reale. Questi dati sono stati preziosissimi per orientare, per capire quali sono gli orientamenti del web, le tendenze, cosa viene ricercato in quali periodi, quali sono le mete che risentono di una stagionalità e quali no. E in base a questi dati abbiamo orientato le conversazioni. Quindi tutto il lavoro che stanno facendo adesso i 15 evangelist del social media team si basa sulle conversazioni, quindi sui reali dati rilevati e non su una nostra strategia inventata della rete. Tentiamo di monitorare tutto utilizzando un pool di strumenti, alcuni gratuiti che sono a disposizione di tutti, Google Trends ad esempio, e altri strumenti che ormai sono nell'uso quotidiano di chi fa questo mestiere, e altri strumenti professionali. Usiamo Radiance X, usiamo Sisamos, usiamo degli strumenti semantici che vanno ad analizzare le conversazioni e a tracciare delle mappe di significato, delle correlazioni, in modo da poter scendere anche all'interno delle conversazioni e seguirne il tracciato. Siamo assolutamente convinti che ci perdiamo una buona parte di conversazioni, ma questo sta nel gioco di una strategia social, che non tutto si possa monitorare, non tutto possa essere tenuto sotto controllo. Allora, 350.000 conversazioni monitorate non è male come sforzo. Si diceva della necessità di cominciare ad ascoltare quello che succede in rete per le aziende, per le istituzioni. La voce che abbiamo sentito è quella di Mirko Lalli, che è uno dei pionieri, si può dire, lato in-house, quindi lato istituzioni, lato aziende, perché poi nelle agenzie c'è già un sacco di gente che parla di monitoring, ma delle vere pratiche di successo come questa della Toscana che abbiamo ascoltato, insomma, non ce ne sono moltissime. Per parlarne oggi abbiamo in studio intanto Gianandrea Facchini, che saluto. Ciao Gianandrea. Ciao. Gianandrea, che è il fondatore di Buzz Detector, una delle principali aziende italiane specializzate in social media monitoring, e poi abbiamo anche un gradito ritorno, si dice, no? Assolutamente. mi sto facendo un po' influenzare dal clima di Sanremo, no? Il gradito ritorno, c'è gente che appare lì da 50 anni. Stefano Mizzella, che lavora in Open Knowledge e usa anche lui molto questi strumenti, e con lui parliamo di queste cose e poi parleremo anche di cose un po' più controverse più avanti. Insomma, c'erano una volta i focus group, le indagini qualitative per capire la reputazione, il sentiment, oppure per capire che cosa associamo emotivamente a un brand, no? C'erano queste belle riunioni con la psicologa, i popcorn, la Coca-Cola, venivano anche pagate profumatamente. Ma esistono ancora, Gianandrea, i focus group? Beh sì, i focus group esistono ancora. esistono ancora e probabilmente non verranno mai sostituiti completamente da altre attività, da altre forme di ricerca, come può essere la ricerca online. È indubbio che il focus group, forse più di tante altre attività di ricerca, risente un po' di quelle che sono le limitazioni del chiudere in una stanza un gruppetto di persone e di vedere poi se per caso c'è un dominante all'interno di questo gruppo. Ma chi sostituisce oggi la psicologa se invece l'indagine qualitativa si fa sul web? Ma la psicologa in realtà potrebbe anche non essere sostituita. Quello che è importante nell'analisi sul web, nell'ascolto sul web, è che chi analizza i dati sia realmente in grado di ascoltare, di leggere e di capire. Non è rilevante avere una preparazione tecnologica, non è rilevante avere necessariamente una preparazione approfondita di marketing. L'importante è riuscire a capire il linguaggio delle persone. E attraverso la comprensione del linguaggio delle persone si riescono ovviamente poi a riportare ad un piano pratico, concreto, tutte le informazioni che si raccolgono e a tradurle in vantaggio reale per l'azienda. Ecco, qui in Italia siamo forse un po' ottimisti quando parliamo tra di noi sul fatto che ormai molte aziende iniziano a conversare, in realtà molte semplicemente ancora ignorano l'uso di questi strumenti. A che punto siamo come adozione, come livello di adozione e di cultura in Italia? Credo che il punto vero sia dovuto a... si debba fare riferimento a quello che è la struttura economica del paese. E cioè l'Italia ha un numero enorme di piccole e medie imprese che hanno culturalmente poca predisposizione ad un marketing strutturato e di conseguenza all'utilizzo di strumenti strutturati di marketing e di comunicazione. Per cui è molto facile riuscire ad avere quantomeno un primo approccio con aziende di grandi dimensioni, con le filiali italiane di aziende. Ecco, questo è un altro meccanismo, perché da noi a volte arrivano le briciole dei budget europei, no? Per queste cose. Sì, lo fa tutta l'Europa e allora lo deve fare anche la filiale perché è un programma europeo magari, no? Ma sai, questo è vero nel mondo della comunicazione da tempo, cioè da quando sono state centralizzate le creatività, da quando si è centralizzato determinate funzioni come, non so, il media, piuttosto che da tempo l'Italia è un po' marginale rispetto allo sviluppo di strategie originali, soprattutto per ciò che riguarda appunto le grandi aziende, le multinazionali. Il problema vero è, e la sfida vera sarebbe quella di far crescere culturalmente, dal punto di vista del marketing e della comunicazione, l'enorme numero di piccole e medie imprese che sono molto attive dal punto di vista produttivo, molto attive da alcuni punti di vista dell'innovazione, ma ci sentono abbastanza poco poi quando si tratta di andare a lavorare su un marketing un po' più raffinato. Stefano, questo fatto di ascoltare quello che la gente dice di te, proviamo a dirlo in modo molto laico, senza pensare necessariamente a un'azienda, poi vedremo che impatta persino sull'opinione che si ha su singole persone, no? Però non è una pratica forse più adatta al business to consumer, no? Perché noi associamo delle leve emotive alle cose che compriamo, eccetera, piuttosto che al business to business, dove bene o male la reputazione di un'azienda si fa a un livello un pochino più appunto codificato rispetto al mare magnum che succede sul web. Guarda, su questo non sono d'accordo, in quanto comunque i social media ci stanno dimostrando quanto i confini tra il versante del B2B e del B2C siano assolutamente labili, permeabili. Anche aziende che lavorano nel B2B, che non arrivano quindi al cliente finale, hanno bisogno di ascoltare per capire quella che è anche la percezione dei loro prodotti, per esempio da parte di partner o di possibili acquirenti di quel servizio e di quel prodotto. Quindi non assolutamente ascoltare è il primo elemento di qualsiasi strategia, sia nel B2B che nel B2C, perché soltanto ascoltando tu poi puoi capire come reagire, puoi capire come coinvolgere sia l'utente finale a un tuo possibile partner. Va bene, allora abbiamo detto anche che l'ascolto riguarda quello che viene detto di noi individualmente. C'è stata una puntata tempo fa di Conversational tutta dedicata al personal branding, alla reputazione individuale. Bene, io voglio mandare in onda due parole di una persona che ha fatto qualche indagine su questo tema, che si chiama Livia Iacolare, intervistata da Luca Sartoni. E come fai a monitorare le informazioni che altri mettono online su di te? Per esempio su altri blog o su altri siti? Beh, faccio un po' di ego surfing, ovvero utilizzo Google o altri motori di ricerca più specifici, come ad esempio, che ne so, 123people, per cercare, per vedere cosa viene detto di me online e quale tipo di informazioni arrivano alle persone. Perché non è detto che tutte le informazioni che poi mi riguardano siano siano accessibili a tutti. Una persona potrebbe avermi taggato in un profilo di Facebook e probabilmente mi hanno visto solo 50 persone o soltanto i suoi 50 amici. Quindi ecco, bisogna anche capire fino a che livello si può, diciamo, controllare quello che gli altri dicono di te o scrivono di te. E da un punto di vista professionale, ma poi non solo professionale, anche personale, ogni volta che incontri qualcuno che non conosci, è tua abitudine andare a ricercare informazioni su internet che lo riguardano? Sì, assolutamente, direi che è la prima cosa che faccio, perché non per una questione di stalking, ma soprattutto per essere più preparati nel momento in cui ci si incontrerà faccia a faccia, qualora si tratti di un contatto di lavoro, o anche comunque per capire chi ho di fronte, per conoscere un po' meglio le persone che ho di fronte. Direi che questo è un vantaggio rispetto al modo di relazionarsi che si aveva prima di utilizzare internet, perché ti permette di avere di poter anche a trovare degli elementi in comune immediatamente con una persona, quindi evita una serie di processi inutili nell'atto nel momento in cui conosci una persona. Cioè, diciamo che hai già superato a monte certi tipi di discorsi, perché comunque conosci, sai quali sono gli interessi di quella persona, sai cosa fa, sai a cosa non piace a quella persona, quindi puoi andare oltre e puoi conoscere davvero la persona più quello che ti interessa. Allora, abbiamo sentito fondamentalmente di due pratiche che si svolgono molto spesso. Cioè, una è quella di andare sulla Google Search Bar, no? Sulla barra di ricerca di Google, scrivere il proprio nome per vedere che cosa viene detto di te, di un post che hai pubblicato, di una foto che hai messo, eccetera. E poi l'altra cosa di cui parlava Livia, forse anche più interessante, e cioè prima di incontrare una persona che non conosci, automaticamente cerchi di capire chi è e ti fai un'idea, no? Andando a vedere che cosa dice Google a proposito di questa persona o a proposito di questa azienda, se devi fare un colloquio in un'azienda, eccetera. Cioè, oggi è molto molto difficile pensare di poter plasmare una propria immagine come accadeva prima, quando esisteva una barriera d'ingresso ai mezzi di comunicazione. Intanto, prima che mi date la risposta professionale, voglio sapere se fate anche voi le cose che fa Livia normalmente. Assolutamente sì, assolutamente sì, perché come diceva Stefano prima, le cose B2C e B2B che vanno a confondersi, che hanno barriere sempre più labili, e allo stesso tempo i nostri profili professionali, i nostri profili personali tendono ormai a essere molto molto labili, quasi a non esistere più, perché è impossibile essere presenti nei vari social network e mantenere pareti stagne tra ciò che è il lavoro e ciò che è la vita privata. E tu, Stefano, lo fai ancora? Assolutamente. Oppure ti stai evolvendo verso forme ancora? Lo ammetto. No, non c'è niente di male. Poi naturalmente dipende dal motivo per cui una persona lo fa. Se comunque il fatto di ricercare delle informazioni sul proprio conto significa anche imparare da quelle che sono anche le possibili critiche, no, che provengono da altri utenti, io lo vedo assolutamente come un'azione costruttiva che va al di là del semplice desiderio di ricercarsi in rete, anche perché poi ormai Google probabilmente non è più il solo strumento che ci permette di fare questo. Possiamo vedere quello che si dice di noi su Twitter o i link che già arrivano in entrata al nostro blog o su altri social network. Poi ci sono anche i ranking automatici, no? Ci sono dei servizi che pescano dai principali social network e vedono, ti dicono automaticamente in un'ipotetica classifica quanto sei influente, quanto sei menzionato, quanto sei popolare. Guarda, sono credibili questi strumenti? A mio parere assolutamente no, è lo stesso motivo per cui poi anche quando la spostiamo, no, dal piano personale a quello aziendale, la ricerca dell'influencer fatto dall'azienda attraverso gli strumenti di monitoring è una ricerca molto spesso superficiale, che vuol dire che è influencer soltanto una persona che ha parlato molto del mio brand. Io voglio capire come ne ha parlato, perché mi ha parlato. Ci sono queste bellissime raffigurazioni grafiche che ogni tanto vengono fuori, no? Abbastanza facilmente da Facebook riesci a vedere quanto è grande la tua palla e quanto sono grandi le palle dei tuoi amici. Più è grande la palla, più vuol dire non che racconti palle grosse, ma vuol dire che sei influente. Adesso, al di là della soddisfazione di poter pubblicare questi bellissimi schemi, eccetera, tutto questo ha un valore, non voglio dire scientifico, ma ha un valore di marketing, per esempio. Ma, Gian Andrea. Il valore di marketing dipende dall'abilità di chi lo vende. Ecco. Nel senso che ovviamente se vogliamo mettere effetti speciali, esistono tantissimi strumenti per riempire di effetti speciali qualsiasi presentazione, e siccome c'è abbastanza poca preparazione in giro nell'affrontare questa tipologia di informazione, molte volte capita che il tuo interlocutore si innamori di un effetto speciale. Il quale poi e questo effetto speciale diventa per lui uno straordinario strumento di vendita anche interno all'azienda. Nessuno va, o ben pochi vanno, a questionare la parte, diciamo così, scientifica della vicenda, anche perché non si sentono su un terreno solido. Ecco. Siamo molto lontani da... Insomma, in questa fase di trasformazione vincono i peracottari, mi stai dicendo? No, non vincono i peracottari, ma camminiamo su un filo sottile, indubbiamente. Camminiamo su un filo sottile. Va bene, io sto cercando di scaldare l'atmosfera, perché adesso si va a parlare di cose un po' più controverse. È stata una settimana un po' particolare, perché intanto è finita la Social Media Week, che è piaciuta molto, per certi versi è stato un grande successo, però per altri... Ci sono state delle critiche, perché sono stati molti eventi, è stato considerato un evento dispersivo. Ne abbiamo parlato anche qua in radio quando l'abbiamo presentata, e effettivamente c'è stato qualche momento di ripetizione, però forse nel senso che molti di questi eventi tra di loro un po' si somigliavano, no? Questi incontri che hanno pervaso Roma, però glielo possiamo perdonare, perché è stato comunque un evento molto divulgativo che ha allargato sicuramente il pubblico di queste tematiche. Diverso è il caso invece di mercoledì scorso, quando a Milano c'è stato questo grande evento, il Forum della Comunicazione Digitale, che ha provato a fare qualcosa di molto rischioso, cioè ad ascoltare, visto che oggi parliamo dell'ascolto, ad ascoltare in tempo reale quello che la rete diceva di ciò che veniva detto dal palco. Ed era, si potevano seguire queste cose sia dalla platea naturalmente, sia però anche in streaming, e la rete commentava non sempre in modo lusinghiero quello che veniva detto sul palco. Adesso vi faccio sentire un breve inserto dell'intervento di Yves Confalonieri, che è il presidente di RT Interactive, cioè la divisione del gruppo Mediaset che si occupa della televisione interattiva, della TV via internet, insomma di tutti gli sviluppi più avanzati, no? Della televisione. Ha detto un po' di cose, a un certo punto sentirete un applauso. L'applauso non era per lui, ma era per un tweet che era apparso alle sue spalle, perché i tweet venivano in tempo reale proiettati su uno schermo dietro di lui. Sentiamolo. E per noi è chiaramente un discorso importante, anche perché ci permette di dare nuovi contatti, ci permette di fornire, diciamo, nuovi contatti pubblicitari alle aziende. E devo dire che una delle cose che si dicevano 10 anni fa, vediamo un po' che avrebbe lo scopo. Dopo se vuoi lo faranno altri. Allora, non si sentiva molto bene, era una registrazione un po' artigianale, ma fondamentalmente è arrivato un tweet che, insomma, mentre lui parlava del futuro della TV secondo Mediaset, questo dopo uno spottone molto altisonante anni 80 con effetti Dolby Surround, eccetera, a un certo punto arriva un tweet alle sue spalle che dice: vabbè, insomma, quando è che arriverà il bunga bunga sul web? Battuta anche abbastanza così banale, eccetera. Fatto sta che il pubblico, forse anche per il momento particolare che stiamo vivendo, ha applaudito, e lui si è sentito in obbligo di dire: il bunga bunga sul web lo fanno altri. Non so, forse è un riferimento a YouPorn. Fatto sta che, insomma, è stato un momento un po' difficile, no, per l'organizzazione di un evento. Ma ho letto anche alcuni tuoi interventi, Stefano, su FriendFeed, che dicevano: forse non è il caso di pubblicare questi tweet in tempo reale. Non c'è nessun obbligo di ascoltare quello che dice il loggione pronto a lanciarti ortaggi. No, ma il mio punto di vista è che le critiche naturalmente fanno bene. Il bello della comunicazione social, appunto, è che permette alle persone davvero di esprimere la propria opinione sempre e comunque. Quindi va benissimo anche commentare in tempo reale quello che è una relazione all'interno di un convegno. La mia critica era sul fatto che, secondo me, è necessario in qualche modo separare, tenere distinti il momento della presentazione rispetto a quello della discussione. Quindi, indipendentemente dal valore poi di chi parla, il fatto di leggere dietro di sé dei tweet in tempo reale e quindi permettere anche alla platea di leggerli, naturalmente può essere una fonte di disturbo, di distrazione, sia per chi parla che per chi ascolta. Mentre invece, appunto, benissimo prendere spunto da... Ma che senso ha, scusami Stefano, parlare di distrazione, di disturbo, quando io ero presente a Milano e su 200 persone che stavano sentendo quello che accadeva sulla platea, 150 avevano un computerino o qualcosa con cui giochicchiavano mentre questi parlavano. Cioè, le fonti di distrazione sono molte, Stefano. Non è il tweet è semplicemente, come dire, qualcosa di sottofondo, lo puoi seguire come puoi non seguirlo. Assolutamente, diciamo che forse l'evento era anche sbagliato, nel senso che oggettivamente era difficile tenere alta l'attenzione con dei relatori di quel calibro, no? Lo dico naturalmente in maniera ironica. Vabbè, allora Gianandrea, qui Stefano mi fa un assist a porta vuota. Il problema principale individuato di questo forum della comunicazione digitale, che non è un evento nuovo, si svolge già da parecchi anni, è che fondamentalmente, poi è stato anche detto in modo molto trasparente dagli organizzatori, si pagava per salire su quel palco e per parlare alla platea, che invece poteva entrare gratis. Quindi tu eri invitato a venire a sentire quello che veniva detto, ma i contenuti erano filtrati in base al censo, fondamentalmente. Una volta esisteva, no, l'elettorato passivo in base al censo, adesso esiste il palco. Palco. Si paga per parlare. È giusto secondo te, Gianandrea? In termini assoluti non dovrebbe essere così. In termini relativi può anche essere che ci siano degli interventi nei quali qualcuno paga per avere l'opportunità di parlare, ma visto l'attenzione spasmodica che le aziende dedicano a ogni singolo centesimo di euro delle loro risorse, forse a maggior ragione, se un'azienda paga per parlare, dovrebbe essere in grado di fornire dei contenuti che abbiano una sostanza. Se pago per parlare e racconto delle banalità, ho sprecato doppiamente il mio denaro. Detto questo, torno un attimo al discorso dei tweet, perché ho un approccio forse un po' romantico alla vicenda. Io avrei voluto che i relatori avessero uno spessore tale che gli consentisse di interrompere una presentazione e di entrare nel merito di determinati commenti che venivano fatti. Indubbiamente, per fare questo bisogna avere una preparazione sulla materia notevole e bisogna avere anche una capacità di tenere una platea assolutamente notevole. Quindi richiede relatori che abbiano un peso specifico assolutamente straordinario. È capitato di sentire relatori, a tutti noi, di sentire relatori che aprono bocca e improvvisamente tutti si zittiscono e ascoltano. Mi è capitato di sentire David Armano parlare di determinate cose e... Guarda, faccio un esempio abbastanza semplice. Ormai il trend a livello internazionale è quello di un evento che viene organizzato non tanto per avere un audience in quel momento, ma... durante l'evento si producono dei contenuti e quindi, come si diceva una volta, content is king. È così fondamentale che le cose che vengono dette sul palco abbiano valore, che è proprio questa la chiave che dà un senso editoriale a tutto l'evento, perché tu sai che quello che viene detto viene registrato, ripreso e grazie a internet tendenzialmente rimarrà on demand, disponibile per l'eternità, e quindi si esporrà non solo alle critiche del nostro attuale spirito del tempo, tra virgolette, ma a tutte le chiavi di lettura che ci saranno in futuro. Pensiamo al caso di TED, no? TED è una serie di conferenze. Voglio coinvolgere Stefano, che insomma conosce bene il mondo di TED, il mondo di Mindbridge, insomma di eventi di questo tipo, dove sì, ok, d'accordo, esiste l'evento, ma soprattutto ci sono questi discorsi che hanno un ritmo travolgente, hanno, diciamo, comunque una forza anche espressiva estremamente coinvolgente. Poi possono anche essere messe in discussione le idee, no? TED nasce da Chris Anderson e molte delle sue tesi sono state poi messe in discussione. Eppure, rivedere i discorsi di Chris Anderson mantiene un grandissimo fascino a distanza di tempo. E dai, paragonare appunto i discorsi fatti al forum digitale con quelli di TED, insomma, ma la quantità di soldi che girano alla fine è abbastanza la stessa, ma infatti, no? Quella è la cosa triste. Ci dobbiamo fare molte domande su questo. Il punto è che a me viene un po' da pensare come quando un insegnante dice però la mia classe non mi presta attenzione. Io la vedo così, magari è una visione romantica, come diceva Gian Andrea, però non è mai colpa degli alunni, è sempre colpa dell'insegnante. Va bene, dunque, io non vorrei andare oltre su questo tema di questo evento di mercoledì scorso, se ne è parlato anche molto in rete, basta fare una ricerca con l'hashtag forum digitale, insomma già trovate gran parte delle polemiche a cui facciamo riferimento, e adesso aprirei un altro capitolo, anche qui croce e delizia, l'agenda digitale. Ha bisogno di sapere da che parte va e quali sono le porte aperte, i treni che possono ancora essere presi e non si sono ancora persi, i giovani in particolare hanno urgente bisogno di avere un'idea di strada davanti. Il digitale è chiaramente una dei modi per raccontare che strada abbiamo davanti. È un posto, il digitale, nel quale ci sono opportunità, ci sono cose da fare, ci sono indignazioni da trasformare in attività, in innovazione. Questo è il motivo per cui sintetizzare in una idea di agenda digitale per un paese queste esigenze è necessario, è importante che la politica se ne renda conto, ma prima di tutto ce ne dobbiamo rendere conto noi cittadini. Allora, la voce che abbiamo sentito è quella ancora una volta di Luca De Biase, che racconta le motivazioni di quella che è stata chiamata con sintesi efficace l'agenda digitale, una sorta di manifesto che cerca di dare una strigliata a tutto il sistema industria italiano e fare quella mossa che per il momento il grande establishment economico che ha nelle mani il paese sembra non voler fare. Intanto dovremmo avere in collegamento per telefono Paolo Valenti, detto anche Wally sui social network, corretto Paolo? Esatto, ciao. Ciao. Allora, lo abbiamo coinvolto perché è uno dei sostenitori, dei promotori, anche dei volontari di Agenda Digitale. Tra l'altro lui è rappresentante di, correggimi se sbaglio, di WordPress Italia, che è insomma un'importante piattaforma che ormai non ha più senso definire semplicemente una piattaforma di blogging, ma anche un vero e proprio CMS, quindi un sistema per la gestione dei contenuti estremamente versatile, un sistema open source, insomma si possono fare veramente cose straordinarie con WordPress. Paolo, raccontaci perché ti ha attratto questo appello dell'agenda digitale intanto. Ma prima di tutto perché me l'ha proposto alcuni amici, dei quali ho grandissima stima e fiducia. Secondo, perché a differenza delle solite cose che vengono fatte, non ha una parte politica, si rivolge a tutta la politica in generale, perché purtroppo l'Italia è arretrata moltissimo in tutto ciò che riguarda l'agenda digitale, quindi tutto ciò che ci riguarda, quindi dal semplice certificato elettronico alla carta d'identità elettronica, allo scambio dei documenti in elettronica, fatture, qualsiasi cosa che riguarda l'elettronica e che quindi aiuterebbe a semplificare la vita al cittadino e alle aziende, in Italia non è assolutamente gestita in modo virtuoso. Secondo motivo è perché anche in questo caso non si è voluto fare come al solito una politica di lobby, cioè non abbiamo nessuna intenzione di fare proposte, perché le proposte in questo caso devono venire per forza dalla politica, perché la politica che ci governa sono loro, i politici, quelli regolarmente eletti, che devono creare proposte, approvarle e fare diventare legge, esattamente come succede in tutto il resto d'Europa. Ecco, non c'è, ribadisco qui, due concetti fondamentali, sì. Non c'è appartenenza politica e non c'è desiderio di lobby o di diventare interlocutori. Questi sono i due motivi per i quali ho aderito con molto piacere a questa la proposta. Ecco, diciamo che di primo acchito bene o male abbiamo aderito tutti, perché era largamente condivisibile, però la sensazione subito dopo è che sia diventato, vabbè, c'è stato intanto un immediato rilancio nel mondo della politica, come era anche giusto che accadesse, no? Il PD ha fatto una sua proposta, Brunetta sì, ha fatto delle dichiarazioni che hanno dato ulteriore, diciamo così, il ministro ha dato ulteriore lustro tutto sommato a quello che era nel manifesto, però poi ne ha approfittato per fare uno spottone e dire che tutto sommato in materia di agenda digitale l'Italia era uno dei paesi più avanzati del mondo, cosa che fa in realtà un po' accapponare la pelle. Ma soprattutto poi ci sono state un po' di... ridere anche perché, perché c'è una bellissima immagine postata su agendadigitale.org, sì, da uno studio dell'ONU. Ci sono solamente 4 paesi al mondo che non hanno un'agenda digitale. Una è la Groenlandia, l'altro il Vaticano, l'altro la Libia e ovviamente il quarto l'Italia. Bene, allora apprendo con conforto che le isole Vanuatu hanno un'agenda digitale, ma a parte questo... Questa ce l'hanno perché è tutto in verde. A parte questa che è una becera battuta da trentesimo minuto della trasmissione quando siamo tutti un po' più stanchi, un po' ha colpito però il fatto, perdonami Paolo, se mercoledì quando c'è stato questo forum della comunicazione digitale molte delle persone che erano sul palco, anche persone importanti che avevano sottoscritto l'appello, non hanno minimamente menzionato quello che stava succedendo nei palazzi del potere nello stesso momento, cioè il taglio drastico ancora una volta nel decreto mille proroghe della banda larga. E questo ho letto questo tuo bellissimo post, Gian Andrea, si può magari obiettare nel merito, però c'era molta come dire, molto investimento emotivo in quello che hai scritto nel tuo blog. Dicevi come mai questi qui hanno fatto prima la moina di firmare il manifesto, poi però non hanno mosso un dito una volta che erano sul palco e avevano l'occasione di dare voce. Perché credo che non si sia capito a questo punto quello che noi stiamo facendo. Probabilmente non siamo stati chiari noi, anche se abbiamo scritto in tutte le salse. Cioè noi non stiamo facendo proposte, non stiamo giudicando le proposte degli altri, noi abbiamo portato all'attenzione un grave problema di arretratezza del paese che deve essere risolto dalla politica. Non ci schieriamo per uno o per l'altro. La battuta che passa spesso tra di noi è che a noi non ci interessa che il gatto sia bianco o nero, ma che mangi il topo. Il tuo discorso, secondo me, ha un limite, e cioè io non posso porre all'attenzione un problema e poi sedermi e aspettare che arrivino delle proposte di qualsivoglia tipo. Ma anche ammettendo che io possa farlo, se io pongo un problema e dopo una settimana che questo problema è stato posto, arriva una azione di un governo in carica, qualsivoglia sia il suo colore, che dà una mazzata esattamente al problema che io ho posto, io credo che in qualità di promotore di questo problema dovrei farmi carico di dire: scusate, noi abbiamo preso una determinata posizione, voi state andando in una direzione assolutamente opposta. Allora, io credo che questo dovrebbe essere anche lo scopo di un'agenda digitale, e cioè quella di dire: attenzione, già siamo quart'ultimi nel mondo, in più abbiamo 2 euro a disposizione, in più ne prendete uno e lo spostate in altri settori, così non può funzionare. Allora vuol dire che il messaggio lanciato da Agenda Digitale non vi ha minimamente sfiorato. Allora forse, se nessuno reagisce, a mio modo di vedere, subentra anche, o può subentrare, a me è subentrata, un po' di frustrazione in questo assordante silenzio da parte dei promotori di Agenda Digitale nei confronti di un'azione che era, passatemi il termine, una sorta di sfregio a tutto quello che si era scritto, a tutto quello che era il lavoro che era stato fatto per mettere in piedi il manifesto di Agenda Digitale. Questo è il motivo del mio intervento, cioè non vedere nessuno che alza la mano e dice: scusate, siamo in 100, abbiamo scritto, abbiamo raccolto 10.000 sottoscrittori, quanti siano, e la prima azione che fate è tagliare i fondi, allora noi 10.000 sottoscrittori vi diamo un segno del fatto che non siamo d'accordo. Non è lo scopo del Giro Digitale, cioè è scritto bene e chiaro, il Giro Digitale non prende posizione, non fa proposte, il Giro Digitale chiede che il problema venga affrontato. Anche tagliando, cioè anche facendo venire meno le premesse fondamentalmente, questo mi stai dicendo. Noi non facciamo venire meno nessuna premessa di quello che noi abbiamo fatto, noi chiediamo alla politica che vengano fatte delle proposte. Diciamo che siamo stati molto sfortunati con l'uscita, con i tempi erano sfortunati, però quando abbiamo deciso di fare questa cosa, dato che i soldi, pochi o tanti che siano, per la pagina sul Corriere abbiamo tirati fuori noi, abbiamo deciso in novembre, abbiamo preso un momento dove costava di meno. Ecco. E questo siamo stati sfigati. E il problema è fare le nozze con i fichi secchi, e siccome appunto è stato sancito per decreto che i fichi saranno estremamente secchi, bisogna vedere che cosa ne verrà fuori, ma forse è un po' presto per giudicare. Era giusto lanciare il tema. Noi ringraziamo chiaramente Paolo Valenti per la sua disponibilità e anche per aver grazie aspettato così tardi per questa telefonata. Sono sicuro che la conversazione proseguirà sul sito, su Framefield, su Twitter, eccetera. Ringrazio naturalmente Stefano Mizzella e Gianandrea Facchini per averci raggiunto qua in studio. Vi ricordo che ancora una volta che tutte le trasmissioni di Conversation, siamo arrivati alla 16ª, possono essere scaricate sia in podcasting sia direttamente dal sito www.conversational.it, e ne approfitto per darvi appuntamento alla prossima settimana. Arrivederci. Grazie mille.